L'associazione Sereni e Sempre Uniti è un'associazione dei familiari delle vittime del Covid-19. Ha aderito all'invito in collaborazione con Teatro Arte, l'associazione Teatro Arte Orizzonti Inclinati, nell'ambito della 12ª rassegna Nouveaux Leçons del Teatro Poetico e Sociale Sinfonia Umana per un Mondo di Pace, e ha presentato il libro Quello che resta di una vita, libro scritto dai familiari delle vittime del Covid, scritto per non dimenticare la tragedia della primavera del 20 e la ricerca della verità. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio tutti voi qui presenti per aver partecipato e ringrazio tantissimo Miriana a nome di tutta l'associazione Mia di Antonella per questa importantissima possibilità di essere qua insieme a voi. Due parole giusto in merito all'associazione. Un gruppo di familiari nato con contatto WhatsApp e Facebook. Abbiamo deciso poi verso dicembre dell'anno scorso, del 2021, di costituire questa associazione che è nata solo da familiari delle vittime Covid, ma fortunatamente passando i mesi raccoglie persone, cittadini che vogliono comunque stare vicino o manifestare la vicinanza a tutti noi. L'associazione è nata come un progetto di positività rispetto a tutto quello che ci è successo. Stiamo cercando di organizzare eventi sociali e supporti anche per tutti gli associati, tra cui progetti di supporto psicologico, pet therapy, attività di supporto didattico per i bambini, per le scuole e tanti altri progetti che diciamo, stiamo mettendo in piedi nei vari mesi. Questo era giusto una panoramica perché la cosa importante che volevo sottolineare è che, e anche il libro ne è la testimonianza, dal dolore, dalla. Questa è la storia di persone normali che conducevano una vita normale e alla fine si sono trovati a vivere una situazione che non li farà mai più sentire normali. Questa è la narrazione di chi mai avrebbe pensato di dover affidare a delle parole scritte il compito di dare voce a tutti quelli che ormai di voce non ne hanno più. Questi sono i ricordi, i sogni e i dolori di esseri umani che hanno sofferto ancora una volta per poter raccontare il dramma che li ha colpiti. Queste sono le pagine che tutti abbiamo sentito il dovere di scrivere per dire la nostra versione dei fatti, per far capire cosa abbiamo vissuto veramente, per esprimere le emozioni e le storie di chi in questa pandemia ci è affondato davvero. Queste sono le motivazioni che hanno portato un gruppo di quasi 600 persone a lottare per capire cosa realmente sia accaduto, per avere verità e giustizia. Questi siamo noi, sopravvissuti, ma sereni e sempre uniti. Buonasera a tutti, io sono Antonella Dell'Aquila e faccio parte anch'io dell'Associazione Sereni e Sempre Uniti. E stasera, oltre ad essere qui come rappresentante dell'associazione e come parente di una vittima del Covid, sono in veste anche, diciamo, di curatrice di questo progetto, del libro che si intitola Quello che resta di una vita. Prima di entrare ancora di più nella narrazione del testo, grazie alla bellissima voce di Miriana che ha aperto, diciamo, l'introduzione al nostro racconto con la lettura della quarta di copertina, che poi è un po' una sintesi, no, di questo racconto, io ci tenevo a dirvi qualcosa in più proprio su come è nato questo progetto. In che cosa consiste questo testo e quali sono anche un po' le caratteristiche. Come diceva Alessandra, il nostro gruppo è nato in maniera molto spontanea, soprattutto dopo la prima ondata e tra la prima e la seconda. Noi ci siamo ritrovati inizialmente da una motivazione di carattere giudiziario, questo l'avete capito, no? Molti di noi sono convinti che ci siano state delle negligenze, soprattutto gestionali, che hanno portato ad una sottovalutazione del rischio e questo ha determinato un effetto impattante molto forte nella gestione di quello che è accaduto. Però di questo non vogliamo raccontare questa sera, se siete curiosi potete anche verificare un po' nella nostra pagina internet tutte le azioni dimostrative che noi abbiamo fatto e continueremo a fare per ottenere giustizia che ci ha portato prima a fare una serie di esposti al Tribunale di Bergamo, dove sapete che c'è un'inchiesta in corso, della quale aspettiamo adesso le conclusioni, e poi a istituire una causa civile che ha già avuto due momenti, diciamo, ed è stata rinviata ancora 2 o 3 volte, avremo poi, si augura, la prima, diciamo, sessione della causa a gennaio del 2023. All'interno però di questo contesto noi ci siamo ritrovati come esseri umani in un gruppo WhatsApp dove in un momento, di chiusura o di difficoltà, anche di non comprensione del nostro dolore. Come diceva Alessandra, noi vi siamo particolarmente grati perché oggi, a 2 anni e più di distanza, avere delle persone disposte ad ascoltare il tema del Covid non è facile. Ci rendiamo conto noi stessi, no? Che vogliamo vivere, vogliamo andare oltre e dimenticare. Però è il ricordo quello che ci porta avanti. E così nelle nostre chiacchiere Facebook, social, in un contesto in cui ci siamo sentiti liberi, liberi di esprimere il nostro dolore, liberi di non sentirci giudicati, no? Quei poveretti parenti delle vittime che si piangono addosso, ma di avere rabbia, dolori, comprensione, aiutarci. Un giorno ci è venuta un'idea, abbiamo detto, dobbiamo affidare a qualcosa, un racconto, le nostre emozioni. Di racconti sul Covid ce ne sono tanti, di testi scientifici, giornalistici di grandissimo livello, ne sono apparsi tantissimi. Il nostro non è nulla di tutto questo, è un racconto corale, sono 12 persone più o meno, che sono però esemplificative di centinaia di migliaia, secondo noi, di storie, che hanno voluto riversare ognuna a modo proprio le proprie emozioni. Non siamo scrittori, siamo persone normali, facciamo lavori di varia natura, siamo diversi come estrazione sociale, culturale, politica, credo, come differenti, ma accomunati da questo obiettivo. E così abbiamo deciso di scrivere queste pagine. Questa coralità voi la vedrete da tanti punti di vista, la vedrete nello stile, ognuno ha messo giù proprio racconto, le proprie pagine a modo suo. E questo nelle caratteristiche del libro, perché noi, per esempio, le nostre storie hanno solo un nome di battesimo, che sono i nostri nomi, ma non hanno dei cognomi, non hanno firme, perché noi siamo convinti in questo modo di immedesimare o di rappresentare al meglio la storia di tutte quelle centinaia di migliaia di persone colpite come noi. E la coralità poi si vede anche nello stile, anche nell'individuare un filo comune che è un filo di narrazione, di dolore, però alla fine, leggendo e rileggendo queste storie, quello che emerge è l'amore che i nostri cari ci hanno lasciato e che siano, è la forza che ci stanno dando, ma emerge soprattutto da parte nostra la volontà di garantire il ricordo. Noi siamo convinti che ci sarà il tempo del ricordo. Questo è un evento storico, è un evento che non si può accantonare. Vogliamo dimenticarlo adesso, ma resterà nella memoria. E per noi era l'occasione anche per dare una dignità con la memoria ai nostri cari che poi non hanno avuto neanche la dignità della sepoltura. Quindi abbiamo messo in piedi un progetto tutto da soli, Ci siamo organizzati, abbiamo raccolto i testi, abbiamo trovato un editore, l'abbiamo stampato. Grazie a questo editore, il libro è depositato in quattro biblioteche nazionali, quindi noi il dovere di consegnare alla storia i nostri cari l'abbiamo fatto. E adesso abbiamo il dovere morale di fare andare con le nostre gambe il libro nelle case di tutti gli italiani perché non dimentichino. E non dimenticano quel periodo particolare. Noi l'abbiamo evidenziato a livello stilistico anche con le date. Voi vedrete che i marzo, gli aprile hanno la lettera maiuscola. Non è un errore grammaticale, è voluto, perché quel marzo del 2020, quell'aprile del 2020, quel maggio del 2020 sono quei mesi, non saranno mai uguali ad altri mesi dell'anno. È nostra anche la copertina. Vi dico solo questo, poi non porto via altro tempo. La copertina è molto dura, è uno scatto fotografico fatto da il marito di una nostra altra autrice e rappresenta l'immagine che lei ha avuto quando, tornando a casa, ha visto i pochi beni di suo papà restituiti dall'ospedale. È nostra, è tutto molto personale, molto intimo ed è quello che vogliamo fare emergere. È un racconto certo duro, ma alla fine, letto e riletto, come vi dicevo, porta fuori molto amore, molta voglia di vita, che è quello che ha portato alla creazione poi dell'associazione. Quindi noi, la nostra lezione è: impariamo da quello che è accaduto per il futuro. Spereremmo, non ne siamo così convinti, che se accade un'altra pandemia si sia pronti. Noi umanamente lo siamo. Ultimo messaggio: tutto quello che verrà ricavato, viene ricavato dalla vendita del nostro libro, è dedicato direttamente agli obiettivi dell'associazione di cui vi ha accennato Alessandra e quindi continuiamo a generare, ecco, un circolo virtuoso e di valore da questa nostra esperienza. Potrebbe anche essere che a un certo punto io mi fermi perché è abbastanza difficile leggere queste storie. Mi sentite bene anche così? Tanti frammenti di vita felice quotidiana. Il titolo è La quiete prima della tempesta. Tanti frammenti di vita felice quotidiana che convoglieranno in boati di morte. La nostra vita, prima che venisse sconvolta come un tornado, come quelle immagini che vedi in televisione, con l'uragano che si abbatte sulle case e tutto vola via. Volano i tetti, i camion, come piume, che girano vorticosamente come in una trottola impazzita. E poi la devastazione. Io la vedo così. Io sono voi. Io sono tutte le persone che vivevano un'esistenza serena, non senza gli intoppi del quotidiano. E ora piangono su ferite che non si potranno rimarginare, nemmeno con il passare del tempo. Io sono una bambina che va a scuola, serena, gioca con i suoi amici al parco giochi. Io sono un ragazzino che si strattona con il proprio compagno, quando ancora ci si poteva strattonare, per un litigio che nemmeno ricordo da dove nasca. Non voglio andare a scuola oggi, tanto ho una vita davanti per andare a scuola. Io sono nipote, figlia, moglie, mamma, lavoratore autonomo. Il mio cuore è diviso in tanti pezzetti tra la famiglia, lavoro, vita sociale. Io sono una nipote che va a trovare i nonni alla residenza per anziani. Approfittando di un'ora libera, io e mio figlio ci accomodiamo nella loro camera. Lui davanti alla TV, io sempre a fare chiacchiere. Sono la piccola di famiglia e godo ancora di quella coccola emotiva. Prendiamo sempre il tè della macchinetta, quello buono, che piace anche a mio figlio. Con un piccolo vassoietto di cartone scendiamo nella hall e facciamo scorta di bevande calde. E poi, su, di nuovo in camera, a condividere ancora qualche ricordo, a ridere, a tenerci compagnia. Io sono una che gode anche delle piccole cose, certa che quei piccoli momenti, tutti nostri, sarebbero durati per l'eternità, certa che, quando sarebbe arrivato il momento, ti avrei accompagnato per mano. Io sono un figlio di un padre orgoglioso di me. Amo il teatro e amo quando mio papà mi viene a vedere e mi rassicura. Stai tranquillo, tanto non vedi nulla. E mi dà così tanta forza. Che bello che sei, papà, grazie. Io sono una lavoratrice e una futura sposa, da sempre dedita alla mia famiglia. Come corre il tempo. Siamo già a febbraio e manca pochi mesi al matrimonio. Tante, tante cose da fare, da pensare. Entro questo mese devo assolutamente consegnare tutti gli inviti. Del resto Natale è passato in fretta. Erano tutti in giro a fare compere, ma noi abbiamo preferito evitare. Tanto a maggio partiamo per i Caraibi in viaggio di nozze. Belle, le partecipazioni, troppo originali. Cavoli, questo mese ho così tanti inviti ad aperitivi e così poco tempo. Dicono che forse metteranno delle regole di accesso ai locali per questo virus cinese. Ma io non capisco. Cosa c'entriamo noi con la Cina? E poi sono appena tornata dal mio viaggio in Texas e mi hanno solo misurato la temperatura. Però dai, vedrò tanti amici. E dentro fine mese devo passare a ritirare il vestito di papà. Che bello che è con l'abito nuovo e la cravatta bianca. Così elegante e raffinato. È un po' preoccupato per le scarpe nuove. Ma no, papà, vedrai che saranno comodissime. Danzeremo tutto il giorno. Manca così poco ormai. Così una mamma anestesista mi racconta che da lei in ospedale sono preoccupati per il Covid, che hanno già attivato tutti i protocolli in caso di arrivi sospetti, eccetera, eccetera. Ma io continuo ad avere il cervello congelato e penso solo che il Covid non viaggerà certo in prima classe per prendersi la briga di venire dalla Cina fino in Italia e che sono stufa marcia. Io sono tutti voi. Guardo il telegiornale con grande empatia per il popolo cinese che vive un momento terribile. Ma io vado a mangiare la pizza con gli amici, a raccogliere castagne, al cinema del centro commerciale. Ma io vado a sciare, bella ammassata con gente proveniente da ogni dove. Io vivo. Ma sono anche così ingenua che penso che tutto quello che accade oltre l'oceano sia troppo lontano per arrivare qui, da noi. In un'epoca di globalizzazione, di internazionalizzazione, dove dovere e piacere ti portano a spostarti di paese in paese, di stato in nazione, da un continente a un altro, come posso essere stata così stupida da pensare che quel cavaliere, vestito con il mantello della morte, non viaggiasse su un cavallo alieno, che non ci avrebbe raggiunti? Sentivamo caldo il suo fiato sul collo. Eppure ci siamo arresi di fronte all'evidenza, accoccolati nel nostro torpore, illusi di ciò di cui ci volevamo illudere. E poi, puff, e poi nulla è stato più come prima. Le sirene della paura. È tutto passato, è un tempo passato quello delle sirene. Eppure è ancora tutto così vivido e presente. Nina, Nina, Nino, come un fumetto stampato nella mente. Eravamo in piena pandemia. Chi si sarebbe immaginato uno scenario di quel genere? Era apocalittico. Come abbiamo fatto ad arrivare fino a lì? Guardavo fuori dalle finestre, prendevo aria dal mio cortile. Chiusi in casa da settimane, con addosso il terrore anche solo di andare a fare la spesa. Dal telegiornale arrivavano immagini agghiaccianti. I social erano zeppi di articoli con fotografie che ferivano il cuore. Avevo così tanta paura. E passavano le ambulanze. La televisione era l'unico contatto con il mondo esterno. Quei programmi in TV con i presentatori senza mascherine e niente pubblico in studio. Ma la gente doveva pur aggrapparsi a qualcosa. Dovevamo pur mantenere un'apparenza di normalità. Altrimenti andavamo fuori di testa, no? Le maestre le salutavamo dal computer e i bambini rimanevano collegati sempre qualche minuto in più, per poter chiacchierare con i loro compagni, per fingere di essere lì con loro, mostrando un giochino alla telecamera con la recondita speranza di condividere un pezzetto di quotidiano. Nelle videochiamate, per salutarsi con gli amici, per stare in compagnia con la famiglia lontana, per soffiare virtualmente una candelina di compleanno. Compleanni così vuoti, così freddi. Una videochiamata con gli amici per l'aperitivo virtuale. Una videochiamata con l'ospedale, forse l'ultima. E continuavano a passare le ambulanze e passavano i carri armati su Bergamo. Una città che rappresenta tante città. Una città vuota, morta, arida, solitaria, assediata dai carri armati che cercavano di donare dignità ai nostri cari. Io sono morto. Io sono tutti i nostri morti. Io non ci sono più e me ne sono andato nella più totale disperazione. Per essere stato abbandonato nella mia solitudine, che puzza di morte, che fa un rumore terribile, che mi urla nelle orecchie e che non vorrei sentire. Io ho una fottuta paura di morire e non voglio morire da solo. Io ho paura di lasciare i miei cari che piangono al telefono, in videochiamata, e io mi faccio vedere sorridente e faccio le boccacce da dietro il casco. Io sono un nonnino spaesato, circondato da persone avvolte in tute bianche dalla testa ai piedi. Forse lì sotto c'è il viso familiare di mia nipote, ma non capisco. Dove sono le mie nipoti? Io sono arrabbiato, perché non si può sempre accettare il proprio destino. Io sono morta. E ora vivo nei ricordi di chi mi ha amata. Posso dire due parole? Così. Posso dire due parole? Certo. Così poi magari andiamo nelle storie, ti lascio un attimo respirare. Questa è la parte che Mirjana vi ha letto, sono i capitoli introduttivi, un estratto in pratica di questa narrazione che noi abbiamo realizzato. La nostra idea era quella di raccontare come fosse, no, la nostra vita, la vita di tutti quanti, prima che arrivasse questa tempesta e quello che poi abbiamo vissuto nel mentre. Per noi il suono delle sirene, almeno per quanto ci riguarda, era l'elemento preponderante, suoni, profumi, era tutto molto molto amplificato da parte nostra. Per noi, noi abbiamo fatto tantissime presentazioni dal lancio. Il lancio del libro è avvenuto il 18 marzo di quest'anno, del 2022, in occasione della seconda giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. È avvenuta in un paesino in provincia di Bergamo. Ovviamente la maggior parte di noi è del gruppo bergamasco, anche se noi siamo, io vivo a Milano, anche se sono pugliese, mio papà viveva a Milano e Alessandra è di Monza. E devo dire che questa è una serata molto particolare anche per noi, perché sentire le nostre parole, ovviamente, recitate in questo modo così bello, profondo, con questa voce, ha un effetto ancora più, come dire, anche per noi molto emozionante e molto impattante. E quindi io per questo ringrazio Miriana per questa esperienza. E ancora una volta, ripeto, sono ormai mesi che noi portiamo avanti la narrazione e il racconto di quello che abbiamo fatto e che abbiamo vissuto, però ogni volta per noi è un'emozione. Al tempo stesso, però, in queste pagine, grazie a queste pagine, molti hanno avuto anche la possibilità di buttare fuori quello che sentivano, quindi per qualcuno è stato anche un po' curativo, no? E quindi, trasmettendo le nostre sensazioni, diciamo, l'obiettivo è quello proprio di portare soprattutto il vissuto e quindi questa lettura, ecco. Mi auguro e credo assolutamente di sì che vi fa entrare ancora di più nello spirito e nelle emozioni che noi stessi abbiamo vissuto. La storia di Alessandra e Federica. Nonno, non c'è giorno che il mio pensiero non voli a te. La mia mente vaga e immagina come debbano essere stati i tuoi ultimi giorni. Ma poi mi manca il respiro e il dolore si scarica in un mare di lacrime. Il mio pensiero spesso torna a tutto quello che è accaduto nel mese di marzo del 2020. Oh, insieme abbiamo fatto tante cose, passeggiate, raccogliere funghi, fiori, a seconda delle stagioni. Giochi alla mattina, appena svegli, durante la giornata. Ricordo ogni cosa, così come quegli insegnamenti sul significato dei sacrifici, sul valore dell'onestà che mi hanno reso la donna che sono. Sapevi fare tante cose e io ti ammiravo per questo. Suonavi il pianoforte e altri strumenti musicali come un vero musicista. Dipingevi, cucinavi, scolpivi. Che meraviglia poter creare cose dal niente, inventarle. Che mente eclettica. Ma il tempo scorre inesorabile per tutti. E così è arrivato il momento in cui l'età ha cominciato a farsi sentire anche per te. A quel punto noi siamo diventate il tuo punto di riferimento. E sapevamo che sarebbe toccato a noi proteggerti. E invece abbiamo fallito. Noi, squisitamente rompiscatole per natura, questa volta, questa importantissima volta, abbiamo fallito, sbagliato su tutta la linea. La tua perdita e il modo in cui ti abbiamo perso. Ma come possiamo accettarlo? Come accettare di saperti ammalato, di non poter intervenire, di non poter essere presenti per starti vicino, non poterti telefonare, non poterti vedere, ma solo attendere passivamente una telefonata dall'ospedale e poi rivederti dopo 20 giorni in un'urna per poterti semplicemente accompagnare a riposare con la nonna. Ma come si fa? Come si fa? Poter celebrare un funerale, una cerimonia che riunisse tutta la famiglia solo 2 mesi dopo. non avere nessun conforto da parte dei propri cari perché nessuno poteva uscire di casa. Ma come si fa? È umano non ricevere una singola telefonata dalla residenza per anziani dove ti trovavi nel giorno in cui poi ti avrebbero ricoverato in ospedale. Sapevano tutti com'era la situazione negli ospedali. Sapevano che non avremmo mai potuto sentirti. Eppure nulla, non una singola telefonata. E del resto, dalla struttura, si dicevano prontissimi e che sarebbe andato tutto bene. Sapevamo davvero come comportarci? Oppure un bel giorno ci avrebbero comunicato che eri morto nel sonno. Fine della storia. Abbiamo vissuto nell'ansia, scacciando quel presagio così angosciante di morte che ci perseguitava. Chiuse come animali in gabbia, una rabbia inespressa che non poteva trovare sfogo perché non potevamo retrocedere di un millimetro. Ansia e dolore. Chiamate continue al centralino dell'ospedale, pregando l'operatore, piangendo al telefono, stressando ogni persona dall'altro capo a cui aggrapparsi, qualche operatore compassionevole. Poi uno squarcio nel cuore, quando una di noi riceveva una brevissima chiamata dal medico di turno, delle volte stanco e provato. Il nonno sta male, la polmonite è grave, non vuole mangiare, si strappa la flebo, è molto agitato. Lo dobbiamo sedare. La situazione è grave, non aspettatevi granché. Nessuno che ti passava il telefono, nessuno che ti permetteva di tranquillizzarti, almeno con la nostra voce. Avresti accettato il tuo destino senza sentirti abbandonato? Te ne saresti andato più tranquillo? Ci avresti perdonate per non essere venute a salvarti. Ma come si può dimenticare tutto questo dolore? È questo che la gente vuole dimenticare? È questo su cui dobbiamo camminare con le nostre suole in gomma per tornare tranquillamente alla nostra vita come se nulla fosse successo? Non molleremo mai nella ricerca della verità. Vogliamo delle risposte, pretendiamo delle risposte per noi, per i nostri figli e per tutte le future generazioni. La sposa è il virus, è il virus. La storia di Antonella. Ho sempre pensato che esistano degli anni unici nella vita di ognuno. Di noi. Sono quei momenti che segnano svolte importanti, eventi che non dimenticherai mai, che ti faranno svoltare quell'angolo lungo il cammino della vita, dal quale non si torna indietro. Il 2020 doveva essere il mio anno, lo sapevo, lo volevo, lo speravo. Ho sempre creduto al potere magico dei numeri. E pensavo che questa data, sì, lo rappresentasse in pieno. 20, 20, numero doppio, perfetto, tondo come il ciclo della vita, tondo come il mio compleanno che, quel 7 maggio, avrebbe rappresentato un altro passaggio cruciale. I miei 50 anni. È ancora più magico perché in quella stessa data mi sarei sposata. Tondo come gli occhi neri di mio padre. Era un uomo regolare, mio padre. Aveva fatto di tempi e metodi il suo mestiere e ha sempre pensato che tutto scorresse nelle linee rette della vita e delle sue fasi. Nasci, cresci, studi, lavori, metti su famiglia, invecchi e muori. È strano, strano. Mi trovo qui a provare a parlare di mio padre nel tentativo di raccontare 50 anni di vita insieme e gli altri che io non ho visto, ma che lo avevano condotto alla soglia dei 77. Forte di un'educazione severa e giusta, ma sempre aperto alle novità, mi ha accompagnato attraverso tutti i momenti più importanti della vita, così come ha fatto con mio fratello, e non staccandosi mai dal fianco di mia madre. I numeri che noi riempivamo di anima, di valore e sentimento possono diventare freddi e spietati quando li riduci a pura conta infelice e impersonale, quando li usi per tirare le somme di questo o quel vantaggio. Ed è così che ci saremmo sentiti nel marzo del 2020, umani ridotti a numeri. Poco prima di quel maledetto 12 marzo, tutto scorreva come sempre, ma con una marcia in più. Eravamo nel pieno dei preparativi del matrimonio. L'ho visto uscire in pigiama per andare in ospedale. Scusate, Paola. L'ho visto uscire in pigiama per andare in ospedale e penso che lo abbiano avvolto in un semplice lenzuolo bianco per accompagnarlo nel suo ultimo cammino, novello Lazzaro, a cui non sarà però regalata la resurrezione e neanche una degna sepoltura. I giorni successivi sono stati pieni di angoscia e desolazione, perché anche mio fratello era ammalato a casa, da solo, sommerso nel dolore fisico e nell'incertezza di un risveglio che non era sempre sicuro, ore danzanti al ritmo della solitudine e della paura. Ho sempre sostenuto che abbiamo vissuto una guerra, dove le bombe cadevano nelle nostre case, invisibili ma precise, e le macerie erano quelle delle nostre anime e delle nostre famiglie, sgretolate da un mare di incomprensione e di incertezza. Non avrei mai pensato che un dolore potesse squarciarti dentro come una lama fredda, profonda. Ma quando la persona che ti ha dato la vita va via solo, senza un saluto, nudo, e tu puoi solo immaginare cosa sia accaduto, puoi solo chiederti se in quella bara che vedi via mail, perché non ti è permesso avvicinarti, lui, tuo padre, sia piccolo, piccolo e ordinato. Sì, puoi solo immaginare se con gli occhi della sua anima abbia visto il tratto di strada che lo ha portato a Cuneo per fondere il suo corpo al caldo. Per fondere il suo corpo al caldo abbraccio delle fiamme sotto le cime di bianche e freddi montagne. Tutto il resto è vuoto, silenzio, rabbia, ricerca di una risposta e di una verità che si spera possano arrivare. Oggi alcune cose sono rimaste le stesse, altre sospese, altre cambiate, irreversibilmente. Grazie Emiliana. Avevo una bottiglia di vodka, se no l'avrei bevuta. Sono molto commossa dalla lettura che ha fatto Miriana. Miriana ha letto appunto la storia che a quattro mani con mia sorella abbiamo scritto per la perdita del nonno. Emotivamente non ho altro da aggiungere appunto a quello che ha interpretato, ma neanche interpretato, nel senso ha reso molto umano Miriana rileggendo il testo. Il messaggio che noi vogliamo far passare col libro, naturalmente al di là del racconto della nostra disperazione, della nostra tristezza e di come sia mancata l'umanità nel perdere le persone che amavamo perché improvvisamente sono, passatemi il termine, scomparse dai radar. Per mio nonno è successo così, fino a qualche ora prima riuscivamo a comunicare con lui e dopodiché è scomparso dai radar. Non abbiamo avuto modo di neanche potergli far sapere che eravamo lì, che lo pensavamo. E era abbandonato a se stesso in una realtà ospedaliera di cui poi ci siamo resi conto della tragedia anche all'interno dell'ospedale leggendo la cartella clinica. Una situazione di questo tipo non devono più accadere in un paese che pensa di essere un paese voluto. Nessuno dei nostri cari, neanche il peggiore nemico, deve andarsene dopo aver vissuto una vita come quella che hanno vissuto i nostri cari in quel modo, senza poter avere neanche un abbraccio, un bacio da parte almeno di uno della famiglia. Se fossimo effettivamente stati pronti, come si diceva nelle settimane, nei mesi precedenti, magari qualcuno della famiglia poteva entrare col camice, bardato, mascherine, cuffia, casco, tutto quello che serviva, almeno per un ultimo saluto. Per mesi, e ancora a volte adesso magari, mi chiedo per che motivo, quando ci hanno detto che stava male, che non c'era più niente da fare, io mi sia fatta convincere a non prendere la macchina e andare in qualche modo in ospedale per salutarlo. Perché non è che è tornato a casa senza una gamba o senza un braccio, non è più tornato a casa. E come sia andato via resta sempre un mistero. Sappiamo benissimo, sia noi che lui, che lo amavamo moltissimo ed era una persona importantissima nella nostra famiglia. Però quando arriva il momento in cui serviva che fossimo noi a fare supporto a lui dopo tutto quello che aveva fatto per noi nipoti, noi della famiglia, noi siamo mancati, non ci è stata data la possibilità di poterci manifestare in nessun modo, neanche con una videochiamata, perché alla mia richiesta avvicinatele il telefono all'orecchio per un saluto, mi è stato detto che non capiva, non era in grado di capire, era sedato perché era sempre agitato. Ecco, i racconti sono anche per sperare che l'umanità non venga mai a mancare, perché capisco le difficoltà che c'erano negli ospedali, si capisce tutto il disastro che si sentiva ai telegiornali, però lasciare andare via le persone in questo modo è stato una mancanza di umanità, poter salutare anche al telefono, non avere la possibilità di accompagnare i propri cari anche al cimitero, se non dopo mesi, è stata una cosa non umana, non normale nel nostro contesto, anche nella nostra cultura. E soprattutto quello che io dico un po' ai miei figli, perché i miei figli ogni tanto mi chiedono come mai mamma ha questo impegno così, che insomma, che in qualche modo a volte toglie tempo anche a loro. La mia risposta a loro è che, vabbè, naturalmente loro hanno avuto la fortuna come me di avere questo nonno bis per loro. Io fino a 46 anni, i miei figli fino a 16 anni uno e 12 anni l'altro. Difficile, diciamo, avere una situazione di questo tipo. Però io di quello che dico a loro è che se dovesse ricapitare una cosa del genere, che spero che non capiti chiaramente mai più, io non me ne vorrei andare via da questa terra senza non aver salutato i miei figli, i miei genitori, mio marito, la mia famiglia. Io vorrei che il mondo intorno a noi avesse fatto il meglio che poteva fare per scongiurare che si potesse creare un'altra situazione come questa, perché nessuno, come dicevo all'inizio, merita di andarsene via così. Grazie. Sì, io sì, invito, se avete qualche domanda da farci, potete farla, e magari mentre pensate a qualche domanda aggiungo solo due cose. La storia di Antonella è la mia, sono io la sposa, sono io quella che appunto nel maggio del 2020 si doveva sposare, e la storia l'ha in parte raccontata Miriana, ma la potrete poi leggere nel libro. Vi voglio solo dare un messaggio appunto della nostra lotta e la nostra voglia che tutto, diciamo, cambi per migliorare, sta anche nella nostra scelta di vita. Noi siamo qua, a testimoniare e a raccontarvi quello che è accaduto per migliorare, per ricordare e migliorare. Siamo qua per testimoniare comunque la scelta di vita. Io l'ho scelta, io poi mi sono sposata ad agosto del 2020. Quell'abito bianco, quell'abito nero con la cravatta bianca era quello di mio padre. E il ricordo ce l'ho in questa fede che ha due date, che è quella del matrimonio che dovevo fare e quella che poi ho fatto e che non ho voluto cancellare. Per cui, al di là, ripeto, immagino delle emozioni forti che avete sentito, vi vogliamo comunque dire che si può, se si vuole, trovare la forza e anche la serenità di combattere e di cercare di migliorare le cose, ed è questo che ci porta anche a farci chiamare sereni e sempre uniti. Se avete delle domande, noi siamo qui ancora per, cioè, per qualche minuto se volete approfittare, ecco. Se avete delle curiosità. Allora, noi vi raccontiamo le nostre esperienze, lungi da nessun tipo di polemica, o anche perché dovete contestualizzare ovviamente tutto a quando quello è accaduto. Noi portiamo avanti la nostra lotta, non coinvolgiamo il personale medico, ognuno su queste cose ha le sue valutazioni. Se ci sta chiedendo se siamo stati aiutati, no. Nessun medico è uscito, nessun medico è venuto a casa a farci un tampone, noi siamo stati in isolamento in quell'epoca, contestualizzate, no? Siamo proprio nella prima ondata. Abbiamo avuto le cartelle cliniche, sì, le abbiamo pretese, abbiamo letto che cosa è stato fatto ed è stato per noi, come diceva Alessandra prima, un altro duro colpo, perché per molti di noi, come per me, è stato rivedere, rivivere solo attraverso il resoconto freddo e clinico gli ultimi 15 giorni. Forse di più, 3 settimane di vita di mio padre in ospedale, che è morto al Milano Niguarda, e ci hanno detto che, leggendo quello, hanno fatto il protocollo che c'era in quel momento. Devo dire, mio papà ha avuto l'idrossiclorochina, ha avuto l'eparina, se vuoi tutti questi dettagli. La verità è che non dovevamo arrivare a quel punto. Io ho portato fino a qualche settimana fa, prima mio padre in giro senza mascherina, e perché tanto era tranquillo. E quella sensazione forte che ci portiamo dentro, oltre al senso di dolore, abbandono, eccetera, e che molti di noi non riescono a superare, parlo di noi come associazione o persone che sentiamo, il senso di colpa. Ti senti in colpa se l'hai lasciato in casa perché pensi che parlassi che all'ospedale lo potevano salvare. Ti senti in colpa se l'hai portato all'ospedale perché sai che mandandolo lì non l'hai più visto e non sai qual è la via giusta. Ed è con quello che noi ogni giorno dobbiamo fare i conti, ed è la cosa un po' più difficile, per la quale l'associazione e noi proviamo a dare un sostegno anche agli altri, perché sappiamo cosa vuol dire. Ci sono persone, vi posso garantire, che all'interno del nostro gruppo questa cosa non l'hanno ancora superata. L'ultimo pezzo è una prosa, una poesia che è stata scritta da Dalla voi, Federica, dalla sorella di Alessandra. dalla sorella di Alessandra. E si chiama, l'hanno chiamata, Poesia delle vittime e dei sopravvissuti. C'era una volta, perché ce l'hanno raccontata, e ora la voglio raccontare a te, caro nonno, mamma, zio, cugina, amica, a voi tutti. Ti voglio raccontare di un mondo forse migliore. Ti voglio raccontare di una guerra silenziosa. Di quelle guerre che ti tolgono il respiro, il sonno, il buon umore. Di quelle guerre che sai che devi combattere. Fanno parte di te, della tua educazione al rispetto e alla verità. Perché sai, papà, io lo voglio un mondo migliore per i miei figli. Lo sai, nonna, che le mie unghie strideranno mille volte sulla pietra, ma io arriverò fino in cima a quella montagna e alla fine scusate. Ma io arriverò fino in cima a quella montagna, per te, per voi. Noi non molliamo, arriveremo fino alla fine. Noi siamo sereni e sempre uniti. Le altre entità sono state già lanciate a 5 gennaio del 2020, era stata lanciata anche una convocazione europea ai vari ministri della salute, al quale pare che il ministro Speranza non si sia presentato perché non aveva ricevuto l'email. E da lì tutta una serie di malagestio che, per non parlare specificatamente a livello nazionale, dove per esempio già nei primi casi registrati in Val Seriana, no, aver chiuso e riaperto l'ospedale di Nembro e Alzano, non aver chiuso subito, dichiarato la zona rossa, no? Come lei sa, che poi dei famosi militari che sono stati portati lì e poi richiamati, per cui non sappiamo l'ordine, chi è stato dato, è stato secretato, quindi non possiamo accedere a questi atti, per noi ha determinato poi una situazione catastrofica che ha impattato tutta l'Italia. Ed è contro questo, contro alcune scelte di Regione Lombardia, tra le quali la famosa disposizione di portare i positivi nell'RSA e quant'altro, che noi combattiamo. Su questi aspetti però c'è il nostro team legale, che sicuramente è quello molto molto più esperto di noi. Noi ci siamo costituiti e quindi noi portiamo avanti il nostro aspetto di carattere legale. Teniamo fuori da queste nostre riflessioni qualsiasi riflessione di teorie altre, qualsiasi valutazione e giudizio sulla vaccinazione o altro. Non abbiamo, tra di noi ci sono pensieri diversi, ma non è quello l'obiettivo. Anzi, forse quello che noi portiamo di positivo è che se si ha un obiettivo nobile, vero, di giustizia, si dovrebbe avere la forza anche di andare oltre i propri convincimenti personali per cercare la verità. Noi siamo persone diverse, con pensieri diversi, ma non ci siamo mai rotti o disuniti di fronte all'obiettivo che abbiamo. Non so se accade tanto spesso nelle nostre istituzioni. Può ribadire per favore questo obiettivo famoso? Il nostro obiettivo è quello di ottenere delle risposte, la verità di quello che è accaduto, e quindi conseguenzialmente, se ci sono delle responsabilità di natura penale o di natura civile, che queste vengano ammesse. Noi abbiamo portato avanti una causa civile, perché la causa civile ha anche dei tempi più brevi e ha un indennizzo anche per i familiari delle vittime, perché al di là di tutto, per molte persone sono venute a mancare le uniche fonti di reddito per la famiglia. Noi abbiamo storie non soltanto di persone anziane, noi poi siamo persone di 50 anni, ma al di là di quello, noi quello che vogliamo è che ci sia una ammissione di responsabilità, perché noi in tutti questi anni non abbiamo sentito un solo politico, una sola persona che doveva prendere delle decisioni in quel momento dire ho sbagliato. Anzi, Regione Lombardia, per esempio, prima di ogni altra cosa, ha lanciato una commissione d'inchiesta e si è autoassolta. Altra battaglia che noi portiamo avanti è che vogliamo una commissione d'inchiesta parlamentare che verifichi quello che è accaduto, mentre l'unica commissione d'inchiesta che era stata richiesta nel precedente governo ormai, mai istituita, mai calendarizzata, aveva avuto l'approvazione di due emendamenti portati avanti tra l'altro da due esponenti politici bergamaschi, uno della Lega e l'altro del PD, che ha voluto restringere questa ipotetica commissione d'inchiesta a quello che è accaduto prima del 30 gennaio del 2020, fuori dall'Italia, cioè in Cina. Ci dica lei che commissione d'inchiesta questa è. Ma io ho parlato con una, facendomi accompagnare in ospedale della Croce Rossa dove sono tesserato, parlavo con i crocerossini, mi dicevano ma è da novembre del 2019 che noi abbiamo questo via vai di ambulanze in ospedale con persone che hanno queste strane polmoniti, ma loro lo sapevano già da novembre del 2019 e poi hanno secretato tutto. Tutti i dati sono secretati, sarà difficile fare riaprire tutti questi scrigni chiusi a chiave. È quello che noi portiamo avanti. La nostra lotta è proprio quella. Noi crediamo nella giustizia, ci affidiamo quindi al corso della giustizia, ci affidiamo a chi sta facendo le dovute verifiche, indagini. Stiamo facendo una serie di azioni per alzare la voce, per fare in modo che su questo non cada l'oblio. Questo sicuramente sì, è la nostra lotta. La testimonianza anche che portiamo con il nostro libro ha anche questo scopo, ma non ultimo. Ed è sicuramente quello che noi vogliamo. Speriamo che in un paese democratico, come è accaduto in altri paesi dove sono state istituite delle commissioni d'inchiesta e hanno portato a delle responsabilità, questo possa accadere anche in Italia. È difficile, non impossibile. Ma noi ci crediamo e continuiamo, se no dobbiamo almeno, noi dobbiamo a noi stessi e a chi non c'è più, abbiamo il dovere di dire che ci abbiamo provato, ci dobbiamo provare. È molto importante, è molto importante mantenere viva l'attenzione perché questi casi non si verifichino mai più. Per quello che concerne la commissione d'inchiesta parlamentare, che il governo uscente non ha fatto, se ne parla molto invece in quello che sicuramente, vincendo il centrodestra, è molto più probabile che questa commissione parlamentare sia istituita, almeno ce lo spieghiamo, soprattutto per voi. Sì, in effetti noi abbiamo visto che nei programmi elettorali di alcuni appunto partiti adesso vincenti, della coalizione vincente che andrà a costituire il governo, è presente il punto della commissione d'inchiesta. Ci fa molto piacere, speriamo che questo venga portato avanti anche nei fatti. Durante il nostro cammino non vi nascondiamo che noi abbiamo avuto appoggi o manifestazioni di interesse da esponenti politici di varie parti, perché per noi la verità non ha colore, la verità deve essere verità e non deve essere guidata da un orientamento politico. Se, come è stato detto nei programmi parlamentari elettorali, il nuovo governo vorrà istituire questa commissione d'inchiesta, noi potremo solo che ringraziare. Aspettiamo.